sei bella, più bella stasera, Mariù. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se verso destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirar non penso. Tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano, dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuor non soffra più, parlami d'amore, Mariù. Gli occhi tuoi fiamme di sogno scintillano, e dimmi che illusione non è, a dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuor non soffra più, parlami d'amore.